Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette, dieci minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, oggi in una versione speciale, nel senso che dalle 18 in poi vi sarà lo speciale di Radio 24 dedicato alla strage avvenuta a Palazzo Giustizia a Milano, quindi ahimè strage che abbiamo seguito fin dai primi minuti con lunghe e numerose dirette. Faremo il punto alle 18 di quello che si sta ricostruendo. A questo punto della dinamica e anche di quello che è, di come sostanzialmente la domanda di fondo è una sola, sia stato possibile entrare armati e poi continuare a eseguire una strage dopo anche la prima parte dell'attentato. Allora rimando quindi lo speciale delle ore 18. Oggi invece avremo, per quello che riguarda il programma Focus Economia, due interviste. La prima con il presidente di Federlegno Arredo, che organizza il Salone del Mobile di Milano, uno dei più importanti eventi non solo in Italia ma anche a livello europeo, per fare il punto sul settore. È una delle quattro gambe del tavolo del Made in Italy, fattura quasi 27 miliardi di euro l'anno con 13 miliardi all'anno esportati. L'altra riguarderà, lo dico con una battuta per fare contento chi dice ma lei non ospita mai persone che sono scettiche sul futuro dell'euro. Ospiteremo oggi uno dei massimi teorici a livello mondiale, o massimi critici a livello mondiale di questa Europa, su cui noi siamo assolutamente d'accordo, e mi riferisco a Paul De Grove, che è un economista di origine belga, insegna politica economica alla London School of Economics, è stato anche membro del gruppo di analisi delle politiche economiche per la Commissione europea, e oggi ha tenuto una lezione magistralis alla LUIS dal titolo La recente evoluzione della crisi europea e il futuro dell'area euro. Lo avremo nostro ospite, è molto scettico e critico sulla gestione di questa Europa, ed è, devo dire, anche scettico sulla possibilità che, se non cambia la gestione di questa Europa, possa permanere l'euro. È altrettanto però contrario, lo dico subito, a un'uscita unilaterale di alcuni paesi dall'euro, a partire dalla Grecia. Ma lo avremo ospite, quindi ci racconterà lui la sua visione. Tra l'altro, appunto, oggi l'intervista è partita da alcune dichiarazioni del, così andiamo anche sulla cronaca, del ministro delle finanze greco Varoufakis, che ha detto possa essere d'accordo sul fatto che la Grecia non sarebbe dovuta entrare nell'euro, perché ritengo che nessun paese sarebbe dovuto entrare nell'area euro per come l'area era stata strutturata. Di questo parleremo in una giornata in cui i mercati guadagnano lo 0,70% a Milano, l'1,13% a Parigi, lo 0,90% a Francoforte, l'1% adesso a Londra, meno 0,23% invece l'America, euro a quota 1,06,81. Tra i titoli, Buzzi Unicem più 2,60, Exor più 2,30, come Prismian il 2,20 lo guadagna Tenaris, e Finmeccanica e anche Fiat Chrysler, Mediaset più 2%, Azimut più 1,90, Tod's più 1,80 come Mediobanca. Fronte opposto, Monte dei Paschi perde l'1%, Enel lo 0,50 come Jux. 349-238-6666 è il numero per i vostri sms, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24 per dialogare con il programma. Le altre notizie in breve. Il Fondo Monetario Internazionale, Christine Lagarde, ha detto: attenzione, dobbiamo evitare che il nuovo mediocre, ossia una crescita bassa per lungo tempo, diventi la nuova realtà. Il riferimento era soprattutto alla zona euro. I rischi di bassa crescita e inflazione, l'alto debito e la disoccupazione, questi i rischi elencati dalla Lagarde, che ha però aggiunto: le prospettive dell'area euro stanno migliorando con il benvenuto sostegno della politica monetaria della Banca Centrale Europea. Come ricordava il nostro GR24, oggi la Grecia ha rimborsato il prestito da 450 milioni di euro in scadenza oggi, il prestito del Fondo Monetario Internazionale. Il 14 aprile deve rimborsare titoli di Stato per 1,4 miliardi, il 17 aprile titoli per 1 miliardo. La BCE, secondo la stampa, comunque la Banca Centrale Europea dovrebbe aumentare di 1,2 miliardi la liquidità di emergenza erogata agli istituti di credito ellenici, portando il totale a 73 miliardi. Ci sono pressioni dell'Eurogruppo su Atene affinché faccia più progressi, ma siamo ancora in una fase di stallo. La lista delle riforme greche è attesa entro fine aprile, come prevede l'accordo dello scorso 20 febbraio, mentre il premier greco Tsipras ha oggi annunciato, anzi ha precisato, che Mosca e Atene ieri non hanno ragionato solo di un eventuale joint venture per tornare a esportare da parte greca i prodotti ortofrutticoli in Russia, hanno ragionato anche, hanno trovato un'intesa di massima per creare un ente che veicoli e agevoli le privatizzazioni delle società greche e soprattutto la partecipazione della Russia alle privatizzazioni delle società greche. Sempre il ministro delle finanze greco Varoufakis si dice fiducioso di un accordo entro il 24 aprile, poi ha detto che è imperativo che l'area euro abbandoni la politica della negazione e ammette i suoi problemi strutturali, il fatto che la sua struttura non è stata capace di gestire la crisi finanziaria e il suo impatto economico. Ora, che la struttura dell'Unione Europea, lasciamo stare la Banca Centrale, si sia rivelata inefficiente, inefficace nel gestire la crisi, lo dicono i fatti, non lo dice Varoufakis. L'unica mossa vera di cui in questo momento ci stiamo beneficiando, le mosse vere le ha fatte Mario Draghi. Se fosse stato per la Commissione Europea e peggio ancora per i presidenti dei consigli e ministri delle finanze e quindi vertice dell'Eurogruppo, in questi anni la situazione sarebbe ancora critica, e ricordo quanto la Germania ha osteggiato l'iniziativa della Banca Centrale Europea. Il punto, poi ne parleremo anche appunto con il nostro ospite, il punto è che finché la Germania non ammette che ha sbagliato buona parte della linea non se ne esce. Finché l'idea è che l'unico problema sia il deficit, che c'è come problema, va mantenuto sotto il 3%, e non anche l'attivo, il surplus di bilancio, cioè il patto di stabilità dice che tu non puoi avere un deficit oltre il 3%, devi portarlo verso zero, ma dice anche che tu non puoi avere un eccesso di squilibri, cioè avere un paese con troppo deficit, deve ridurlo, e un altro paese con troppo attivo di bilancio, surplus di bilancio, come il caso della Germania o dell'Olanda, in quel caso il paese deve spendere, fare investimenti. Lo dice il patto di stabilità, non è una richiesta dei paesi del sud Europa. Ora la Germania guarda solo un lato del patto di stabilità, quello sul deficit, e quando fa comodo a lei, perché lo sforò nel 2003 e non beccò le sanzioni. Ma ripeto, finché non ci sarà una riflessione seria da questo punto di vista, è chiaro che si continuerà ad andare al piccolo cabotaggio senza risolvere i problemi. Comunque arriveremo anche a questo. Ancora un paio di notizie brevissime. La prima riguarda, chiaramente riguardano l'Italia, la prima riguarda l'incontro tra comuni, quindi ANCI, e il governo. pace fatta, sembrerebbe, almeno tra il governo e i comuni. Il sindaco di Torino, in quanto presidente dell'ANCI, Piero Fassino, ha detto: abbiamo superato le incomprensioni. E il premier Renzi ha assicurato che il DEF, il documento economico finanziario, non conterrà nuovi tagli a carico dei comuni. C'è anche intesa su come rivedere il riparto per Roma, Firenze e Napoli, che subivano i tagli in quanto città metropolitane, e tra le città metropolitane i tagli più pesanti, superiori al 20%, dal 20 al 25%. Ma è stato un incontro ovviamente franco, come deve essere quando si affrontano problemi aperti, ma molto costruttivo e anche con delle risposte che sono certamente rassicuranti. Il Presidente del Consiglio ha confermato che con il DEF, il documento di economia finanziaria, non saranno previsti nuovi tagli ulteriori a carico dei comuni al di là della programmazione finanziaria 2015-2017 già prevista. Ha dato disponibilità a individuare una soluzione per compensare con il fondo perequativo dei 625 milioni i 1.800 comuni che senza questo fondo avrebbero perdita di gettito sulla TASI e sull'IMU. Ha confermato la disponibilità del governo a affrontare la semplificazione ordinamentale che liberi i comuni da molti vincoli che oggi soffocano la nostra attività, e ha confermato la volontà del governo di dare corso a tutti gli investimenti infrastrutturali, soprattutto sulle grandi metropolitane previste per le grandi città. Mi pare che sia stato un incontro quindi da cui noi usciamo rassicurati, un incontro positivo e che conferma il rapporto costruttivo e collaborativo che da sempre caratterizza i rapporti tra ANCI e governo. Per quello che riguarda invece il carico fiscale, dobbiamo confermare quanto stiamo raccontando da settimane, ossia che in 5 anni, per quando il governo dice non metteremo nuove tasse, però le mettono gli enti locali, quando il governo dice non abbiamo aumentato la pressione fiscale in maniera diretta, però poi si dimentica della tassa sugli immobili. Allora, in 5 anni la tassa sugli immobili, ce l'hanno chiesto in molti in questi giorni, è passata da 9 miliardi dell'ICI del 2011 ai 25 miliardi che è valsa la IMU e TASI nel 2014. Tra l'altro, fa notare la Confedilizia che durante il governo Renzi il carico fiscale è stato superiore di oltre 1 miliardo a quello dell'IMU 2012 del governo Monti. Questi sono i dati sul gettito della casa, quindi sono tasse in più, fine. Per quello che riguarda la Banca d'Italia, oggi segnala un nuovo calo dei prestiti bancari, meno 2% su base annua i prestiti del settore bancario, tra cui quelli alle imprese meno 3% contro un 2,7% a gennaio, quelli alle famiglie meno 0,4%, che vuol dire che nonostante tutto, nonostante il cui è partito dopo, in realtà, però i prestiti delle banche e le imprese continuano a essere in calo, e tra l'altro il calo è pure aumentato rispetto al mese di gennaio. La sofferenza dei crediti bancari è rimasta stabile al 15%, e quello che scopriamo oggi è che le banche hanno comprato ancora a febbraio ancora più titoli di Stato. 416 miliardi erano a gennaio, 423 a febbraio. Allora, attenzione a dire che questo è l'effetto che non ha avuto effetto il quantitative easing di Draghi, perché è partito il 9 marzo, per cui questi sono i dati ancora di febbraio, ma il dato di fatto è che a febbraio sono calati ed è aumentato un po' il calo dei prestiti alle imprese, così come le banche hanno comprato ancor più titoli di Stato. (349) 238 6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Partiamo allora col primo tema, cerchiamo anche di vedere un po' di speranza, e in questo caso sia per la 54esima edizione del Salone del Mobile, che oggi è stata presentata e si aprirà a Milano da martedì 14 a domenica 19 aprile nel quartiere feristico di Ropero, 2000 espositori, 200.000 metri quadrati di area espositiva e migliaia di prodotti presentati in anteprima. Si attendono 300.000 visitatori provenienti da più di 160 paesi. C'è chi dice ormai da qualche anno che il vero appuntamento a Milano non sia più la moda, ma sia il Salone del Mobile. Quanto a visitatori e avvenimenti e prodotti, probabilmente ha ragione. Settore, ripeto, una delle 4A del nostro Made in Italy, assieme ad abbigliamento, alimentare e apparecchiature meccaniche, legno e arredo, quindi fattura quasi 27 miliardi di euro, valgono 13 miliardi le esportazioni, 66.000 imprese coinvolte che danno lavoro a circa 360.000 addetti, che però, se si va a guardare l'indotto, cioè tutti quelli che poi lavorano attorno a questo settore, salgono a 650.000 addetti. Quindi l'importanza è fuori discussione. Purtroppo è fuori discussione anche il calo pesante subito dal 2007, o meglio dal 2008 in poi. La produzione è ancora sotto di un 30% rispetto ai livelli del 2007. Soffre anche in questo settore, soprattutto il mercato interno. Il 2014 si è chiuso con un calo del fatturato del 2,7%, appunto, a quasi 27 miliardi di euro, dovuto soprattutto ai consumi interni, in parte compensati dalle esportazioni. Allora, e poi però il settore ha anche goduto del bonus mobili deciso dal governo Renzi. Siamo in collegamento con il presidente di Federlegno Arredo, Roberto Snaidero. Buonasera. Buonasera a lei e ai suoi ascoltatori. Allora, quest'anno le vostre poi arriveremo anche al salone, ma quest'anno le vostre previsioni a quanto puntano come fatturato? Ma quest'anno le nostre previsioni puntano a ulteriore crescita per quanto riguarda le esportazioni e un mantenimento, purtroppo devo dire questo, anche se non mi piacerebbe dirlo, di mantenimento delle quote sul mercato italiano. Queste sono le nostre previsioni, quindi recupereremo notevolmente sui mercati esteri, merito anche del nuovo cambio euro-dollaro, dei nuovi mercati che stiamo aprendo, e quindi queste sono le nostre previsioni che cercheremo di confermare subito dopo il salone. C'è qualche movimento, almeno in previsione, che voi vedete sui consumi interni? Perché dicevo, l'anno scorso hanno fatto meno 4,2%, avete fatto più 2,9% sull'export, certo, nonostante la Russia, perché la Russia era un canale, un mercato di sbocco fondamentale per voi, sì, avete perso il 7,5% verso la Russia, sì. Però quest'anno avete qualche elemento per essere un po' più fiduciosi sulla domanda interna, sui consumi? Ma guardi, io credo che il bonus mobili ha permesso, se non altro, di fermare la caduta dei consumi sul mercato interno. Questo indubbiamente ha permesso di dare un parvenza di cauto ottimismo sul mercato interno. Tenga conto che il bonus mobili ci ha permesso di recuperare, diciamo così, o di mantenere, far meno di circa 10.000 posti di lavoro. 3.600 aziende hanno potuto vedere un po' chiaro davanti un gettito IVA che va oltre 360 milioni di euro, non aspettato dal governo italiano. Quindi direi che questo bonus mobili, che chiaramente è procrastinato fino al 31-12 di quest'anno, ha dato un piccolo sollievo alle imprese del nostro settore. Tra l'altro il bonus mobili il governo Renzi l'ha confermato anche per il 2015. Sì, esatto, fino al 31-12 di quest'anno, esatto. Noi vi chiediamo che, che questa misura del bonus mobili sia una misura strutturale, quindi che possa andare avanti ancora, perché non vedo altrimenti come possiamo recuperare un 40%, 30% che abbiamo perso dal 2009 a oggi sul mercato interno, mentre sul mercato estero, come lei diceva giustamente prima, stiamo ritornando ai vecchi dati del 2009. Che cosa vi aspettate dal Salone del Mobile che appunto si apre il 14 aprile? Perché insomma le attese come numeri sono tutte a vostro favore. Sì, abbiamo così i nostri canali ci dicono che, a parte che Milano già, per quanto riguarda gli hotel, sono già tutti occupati e quindi già questo è un buon segnale. Noi assieme a Alice abbiamo fatto un'operazione di incoming di buyers da tutto l'estero. Ci aspettiamo una crescita ulteriore delle presenze di visitatori esteri. Purtroppo abbiamo questo grande punto di domanda dei visitatori dalla Russia, perché per noi la Russia fino all'anno scorso era un paese dove avevamo un grande afflusso di visitatori, però c'è in crescita i visitatori da parte della Cina. Quindi quest'anno scorso vorrei ricordare che la precedente edizione Salone del Mobile del 2014 avevamo oltre 24.000 visitatori dalla Cina, quindi questi sono segnali positivi. Ah beh, assolutamente, anche perché voi fate il salone una settimana dall'apertura dell'Expo, per cui due settimane prima per la precisione, ha ragione. Esatto. Su questo però devo dare una notizia, se vuole ascoltare anche lei, che riguarda il gruppo Mercatone 1. Ieri non ce l'abbiamo fatta, è stato ammesso alla procedura di amministrazione straordinaria, quella prevista, scusate, dalla legge Marzano. Ha firmato il decreto il ministro dello sviluppo economico Federica Guidi. I commissari straordinari sono Vincenzo Tassinari, Ermanno Sgaravato e Stefano Cohen. Il gruppo ha 4.000 lavoratori in tutta Italia e per fine aprile è attesa un'offerta d'acquisto da un imprenditore che ha avviato trattative da un paio di mesi. La nostra Valeria De Rosa aveva raggiunto Sabina Bigazzi della Filcams CGL, che aveva dato un giudizio positivo sugli ultimi sviluppi proprio della crisi. È un'azienda che ha un'esposizione, ha maturato negli anni un'esposizione debitoria stratosferica con le banche, si parla di qualche centinaio di milioni di euro, quindi insomma non roba di poco conto, e quindi in una situazione che doveva in un modo o nell'altro trovare uno sbocco. Ecco, secondo noi lo sbocco dell'amministrazione straordinaria è la cosa migliore per la tutela dei lavoratori, è la cosa migliore che potesse capitare in questa situazione, un po' perché non ritenevamo più il gruppo dirigente aziendale né affidabile né attendibile né in grado di gestire questa situazione, e un po' perché anche sul piano proprio delle tutele, il controllo di tre commissari, quindi di una parte terza che a questo punto prende la gestione in toto dell'azienda, come dire, per noi è un fatto importante e fondamentale. Allora, Presidente Snyder, un commento su questo. Ci auguriamo che arrivi nel frattempo la parte di procedura di amministrazione straordinaria, piace anche ai sindacati, però dico, ci auguriamo che arrivi a breve poi la conclusione della trattativa. Teniamo conto che sono 4.000 persone, questo che appunto mi interessa, sono 4.000 persone, teniamo conto che Mercatone è una città commerciale, non è una città industriale, quindi vorrei precisare anche questo, quindi siamo su due rapporti completamente diversi, se non mi risulta che loro producano, però... No, non producono. Però esatto, insomma, quando parliamo dell'indotto del vostro settore anche a quello, ci mancherebbe. Io, il mio primo pensiero va a queste 4.000 persone che stanno passando senz'altro un momento molto difficoltoso. L'amministrazione straordinaria credo che possa dare un ottimismo per il futuro. Credo, non lo so, non conosco i dati, quindi mi interessava comunque. Ma sono d'accordo. Le osservazioni della sindacalista sono d'accordo che il primo pensiero debba andare sempre in questi casi ai 4.000 esatto lavoratori. Ecco perché auguro in bocca al lupo a lei, ma soprattutto io credo che noi stiamo lavorando proprio per mantenere vivo questo nostro settore che è un'eccellenza del Made in Italy inteso sia a livello di produzione ma anche a tutto quello che ci sta vicino, a tutto il settore commerciale e quant'altro. È chiaro che noi, io come federazione guardo alla produzione e noi stiamo facendo e abbiamo fatto delle operazioni di diciamo internazionalizzazione delle nostre imprese, ecco, però fermo restando che il mio pensiero va cordiale saluto a queste persone che purtroppo stanno passando non certo positivo. No, ma infatti io guardavo in bocca al lupo a lei, ma soprattutto ai 363.000 e 650.000, preso anche l'indotto, di lavoratori del settore del legno arredo e quindi anche del mobile italiano. Grazie presidente di Federlegno Arredo Roberto Schneider. La pubblicità al meteo, poi la borsa e poi l'intervista a uno dei più scettici economisti presenti in Europa sul futuro dell'Europa stessa e dell'euro. Diretta. Allora, prima dell'intervista con Paul De Grauw, che farà contenti, vedo già molti messaggi, tutti i teorici dell'uscita dell'Italia dall'euro, ma in realtà Paul De Grauw non dice questo, è molto molto critico, ripeto, sulla tenuta dell'Europa con questi presupposti e quindi la tenuta anche dell'euro. Ma dicevo, andiamo alla borsa rapidamente, oggi il commento lo faccio io, vi dovete accontentare, più 1% Milano, più 1,40 Parigi, più 1 anche Francoforte, più 1% Londra, meno 0,17 invece l'America. Le borse europee già in mattinata avevano aperto su nuovi massimi. C'è un dato migliore del previsto sulla produzione industriale in Germania e un petrolio in leggero recupero. Tra l'altro l'Iran ha detto, lo dico perché è passato forse inosservato, che non firmerà l'accordo sul nucleare se non saranno cancellate tutte le sanzioni. Ha risollevato anche molti operatori, o sollevato molti operatori, il fatto che la Grecia abbia pagato oggi, come ricordavamo in apertura, la tranche del Fondo Monetario Internazionale. Per quello che riguarda invece i titoli italiani, bene Prismian, l'ex Pirelli Cavi più 2,70, Exor e il gruppo Fiat bene, Exor la controllante più 2,50 Exor, più 2,40 Fiat Chrysler, dopo la decisione di investire 500 milioni nell'impianto di Termoli per la produzione dei nuovi motori Alfa. Ai massimi da 4 anni invece Mediaset, ci sono voci, ma veramente siamo solo le voci, di un interessamento o di un'attenzione da parte del colosso multimediale francese Vivendi. Finmeccanica invece ha notizie vere, più 2,20%, ha siglato commesse per 540 milioni di euro con la Marina americana, o meglio statunitense, e l'esercito canadese. Tra i titoli invece allora, i peggiori oggi tra quelli a maggiore capitalizzazione sono Monte dei Paschi meno 0,60 come Hughes e nel meno 0,50. Tra i migliori peggiori in assoluto segnalo i KF più 19,60, IT Way più 18,20 e poi due elementi invece su chi ha perso: Best Union Company meno 3,20%, Poligrafici Printing meno 2,70%, bene anche Rizzoli Corriere della Sera Media Group più 8,20%. L'assemblea per nominare il nuovo consiglio di amministrazione è attesa per il prossimo 23 aprile. Partiamo dalla cronaca e mi riferisco alle dichiarazioni di oggi del ministro dell'economia greco Yanis Varoufakis, che ha detto: posso essere d'accordo sul fatto che la Grecia non sarebbe dovuta entrare nell'euro, perché ritengo che nessun paese sarebbe dovuto entrare nell'area euro così come era stata strutturata. Oggi ha tenuto su questo una lezione magistrale alla Louis di Roma, l'economista Paul De Grove, che è belga, insegna politica economica alla London School of Economics, è autore del libro Economia dell'Unione Monetaria, è stato membro di un gruppo di analisi, del gruppo di analisi delle politiche economiche per la Commissione Europea quando la guidava José Barroso, e si occupa da sempre, diciamo, di, chiamiamolo così, sostenibilità dell'euro e dell'area euro stesso. Gli abbiamo chiesto in primo luogo di commentare quanto ha dichiarato questa mattina Varoufakis, se sia stato un errore far entrare la Grecia nell'euro, ma se non sia adesso o non sarebbe adesso un errore ancora più grave farla uscire. Well, I think it's clear that penso che sia chiaro che sia stato senza dubbio un errore l'entrata della Grecia nell'euro. Credo che in molti condividano questa mia opinione. Sulla seconda questione, cioè se sia un male ora se la Grecia lasciasse l'euro, gli economisti sono divisi. Io penso che probabilmente non sarebbe una cosa positiva né per l'euro né per l'eurozona se la Grecia uscisse ora, perché trasformerebbe totalmente l'eurozona da un'unione dove tutti sono membri permanenti in un'unione dove ogni tanto un paese può uscire quando ci sono troppi problemi, quando la crisi è profonda. Nel breve termine, un'uscita della Grecia dall'euro non avrebbe un grande impatto sul resto dell'eurozona. Nel lungo termine, invece, le conseguenze sarebbero profonde, perché trasformerebbe l'Unione. E la prossima volta che viviamo una grossa crisi, tutti si chiederebbero quale sarebbe il prossimo paese a uscire. Questo destabilizzerebbe la zona euro. Penso dunque che sarebbe molto pericoloso ora avere la Grexit. Quindi lei dice, attenzione, perché l'esempio che verrebbe dalla Grecia è che il prossimo giro, la prossima volta che vi dovesse essere una crisi economica, quale sarà il paese a uscire? Questo è un po' il domino che abbiamo visto nel 2011, dopo la Grecia il Portogallo, dopo il Portogallo la Spagna, dopo la Spagna l'Italia. Quindi la single currency non è un taxi, l'euro non è un taxi che uno può prendere, scendere poi e poi riprendere. Detto questo però, professor De Grove, in questo momento c'è stata una... Lei è stato consigliere, membro del gruppo di analisi delle politiche economiche per la Commissione Europea sotto José Manuel Barroso, ma c'è stato un errore anche nella gestione europea di questa crisi. Non è un caso che siamo l'unica area che ancora cresce meno delle altre, e molti dicono, e noi siamo d'accordo, che c'è stata troppa attenzione sull'austerità, sui conti pubblici, giustamente, e troppo poca sugli investimenti e la crescita. Sì, questo è sicuramente vero. Io direi in questo modo. Durante la crisi abbiamo assistito a dei grandi squilibri. Alcuni paesi hanno accumulato un grande debito. Penso alla Grecia, Spagna, al Portogallo, all'Irlanda. Altri paesi invece sono diventati dei grandi creditori che prestano soldi. Questo squilibrio va risolto. Quello che è stato fatto è stato dire ai paesi con grandi debiti che dovevano adottare politiche di austerità e ridurre la spesa. Quello che invece doveva essere fatto era dire ai paesi creditori che dovevano spendere di più, e così avremmo avuto un sistema simmetrico. Certo, alcuni paesi dovevano adottare politiche di austerità, ma i paesi creditori come la Germania e l'Olanda avrebbero dovuto aumentare la spesa, gli investimenti. Avremmo così evitato la stagnazione che sta vivendo la zona euro. Direi allora che è stato un fallimento seguire alcune politiche macroeconomiche invece che seguire politiche che avrebbero dato beneficio all'intera Europa. So it has been a failure to follow macroeconomic policies that would benefit the eurozone as a whole. Ma perché lei ritiene non si sia arrivati a questo? Il patto di stabilità dice che devi stare attento, non devi superare il 3% del deficit, ma non puoi nemmeno spendere troppo poco. Cioè parla di un equilibrio tra paesi che devono risparmiare e paesi che possono spendere un po' di più, altrimenti tu hai dei fratelli ricchi e avari, penso appunto all'Olanda e alla Germania, e dei fratelli poveri che non ottengono nemmeno, diciamo, un aiuto dalle spese di chi avrebbe i soldi per spendere e vuole tenerli tutti quanti in cassa. È mancata la forza politica per imporre la reale applicazione del patto di stabilità, che non è solo il 3%, ma è un maggiore equilibrio, per cui non puoi avere un paese che ha troppo deficit, ma non puoi nemmeno avere un paese che ha troppo avanzo di bilancio rispetto agli altri, che ha troppo surplus rispetto alla media. That's a very good question, and it's also a very difficult one. I think è un'ottima domanda, ma anche molto difficile. Penso che ci siano due ragioni. La prima è che i paesi creditori hanno il potere e hanno imposto le loro regole. Hanno detto: vogliamo che un certo paese faccia politiche di austerity per poter ridare indietro il denaro prestato. E nell'imporre la loro volontà non hanno pensato alle conseguenze per l'intera eurozona. L'altra ragione sta nel fatto che si sono usati troppi principi morali. Mi spiego meglio. Nel nord Europa c'è la ferma convinzione che i paesi che hanno un grande surplus, che hanno risparmiato, sono bravi, sono moralmente bravi. Mentre chi ha accumulato deficit è invece cattivo, come se avesse commesso dei peccati e quindi deve soffrire. I paesi del nord che si sentono virtuosi non hanno mai pensato al fatto che dovessero scendere a compromessi, perché le loro politiche pensano siano quelle giuste. Questo modo morale di vedere le cose è stato molto dannoso nel delineare politiche razionali che potessero aiutare tutti. Quindi c'è stato troppo moralismo e non abbastanza analisi. L'Europa che lei sta descrivendo, però, è un'Europa in cui, purtroppo sembra dar ragione agli euroscettici, in cui non si ha la consapevolezza di essere nella stessa casa comune, ma è l'idea di tanti proprietari di casa in un edificio in cui uno dice: beh, casa mia è a posto, tu sistema la tua, non vedo perché dovrei io aiutarti a sistemare casa tua. È una cosa un po' diversa sentirsi tutti sotto lo stesso tetto e quindi capire che difficilmente se ne esce da soli, se ne esce o tutti o non se ne esce proprio, o invece pensarsi in case diverse che dividono lo stesso giardino o diciamo gli stessi servizi. Sì, questo è assolutamente vero. È un'ottima metafora. Io credo che non abbiamo una vera unione. Usando le sue parole, direi che non viviamo nella stessa casa. Quando si vive nella stessa casa, si ha un'unione. Allora si è disposti a condividere i rischi. Se in un certo momento un componente della casa ha poca fortuna, ha difficoltà, magari ha poco cibo, se si vive in un'unione, allora si dividerà il cibo con chi ha problemi. Ma questo non è accaduto nella zona euro e credo che la ragione sia perché è mancata la fiducia. I tedeschi non si fidano degli italiani o dei greci, per esempio. Allo stesso tempo non c'è la volontà di vivere tutti insieme, perché non si vuole essere messi nella situazione di dover aiutare chi è in difficoltà. E questo è il fallimento fondamentale dell'unione monetaria. Se vogliamo mantenere l'unione monetaria, dobbiamo costruire una casa in cui vivere tutti insieme e in cui si è propensi alla condivisione. Certamente ci devono essere delle regole e degli impegni, ma tutto questo finora non è accaduto. Non si sono voluti condividere i rischi e il risultato sarà che la casa comune non può sopravvivere. To share the risks, and as a result, this house will not survive. Lei sta dicendo che quindi l'area euro non sopravviverà se continua in questo modo a non sentirsi un'unica casa, ma e i vari paesi a non fidarsi uno dell'altro? Esattamente. Penso che si debba costruire una casa comune. Se non lo facciamo, allora in futuro tutto crollerà. Questo è fondamentale. La situazione attuale non può continuare. Come si costruisce una casa comune a questo punto? Perché non basta avere la stessa moneta, è chiaro. C'è chi dice occorre un'unione anche di carattere politico. Io penso che ci sia anche una grossa responsabilità della politica, in questo caso anche tedesca e olandese, nel non aver spiegato i vantaggi che i tedeschi e gli olandesi hanno avuto nello stare dentro l'euro. La Germania uscisse dall'euro, si troverebbe con la valuta più forte dell'area europea e avrebbe qualche problema a esportare. E quindi in questo momento gode anche del fatto di essere l'economia più forte dell'area euro. Ma torno alla domanda: come si costruisce una casa comune se non si può costruire solo con la moneta? Well, that's a very È una domanda molto importante. Credo che l'unica strategia che possa funzionare sia quella di procedere a piccoli passi, di agire lentamente. Ma il punto centrale è che ci sia la fiducia, perché se non c'è la fiducia è molto difficile costruire la casa comune. Alla fine l'intenzione è di costruire un'unione politica e questo significa che si vuole creare un governo europeo con un Parlamento europeo. Questo processo sarà necessario per rendere l'euro sostenibile, ma sarà un percorso molto lento e non sappiamo se avrà successo. That all this will be successful. L'ultima domanda è, le chiedo però di essere non più professore o meno professore, quindi dirci che cosa andrebbe fatto e rischiare un po'. Quante chance ha secondo lei l'area euro di, anche superata la crisi, ma di riuscire a diventare veramente una casa unica in cui ognuno non pensi solo ai casi suoi e a ciò che più gli conviene, o meglio pensi a quello che conviene in un'ottica di respiro più ampio? E quante chance invece secondo lei ha la possibilità che alla fine i vari paesi decidano tutto, chiudere l'esperienza dell'euro, che, lo dico per chi sta scrivendo, non è la stessa cosa che un paese esca dall'euro come vorrebbe il ritorno alla lira, ma è la fine dell'euro stesso, che è tutto un altro scenario. È molto difficile dare percentuali sulle probabilità, perché dal passato non possiamo imparare molto. Personalmente non sono molto ottimista. Penso che nel medio e lungo termine le possibilità che l'eurozona esploda siano molto concrete. Penso che ciò possa accadere. Non mi chieda se è al 50% o al 60%, nessuno lo sa. Non si può dare una cifra, ma è una possibilità molto concreta e posso soltanto dire che spero non accada. Are you with me? Are you with me? Così appunto l'economista della London School of Economics Paul De Grauwe. Focus Economia, come ho già anticipato oggi, termina qui. C'è purtroppo lo speciale di Radio 24 dedicato alla strage al Tribunale di Milano. Domani parleremo anche della Popolare di Vicenza, non ce l'ho fatta oggi, che ha abbassato a sua scelta, questo quando le banche non sono quotate in borsa, il valore delle azioni da 62 a 48 euro, una perdita del 25% per gli azionisti. Ne parleremo domani. Intanto comunque l'augurio di una buona serata.